La scuola primaria. La scuola primaria dura 5 anni con 40 ore di lezione a settimana. Il numero di alunni per ogni classe di solito è inferiore a 25 e superiore a 10. Il totale non supera i 20 alunni quando in aula ci sono bambini portatori di handicap. A questo livello, le materie principali sono l'italiano, almeno una lingua dell'Unione Europea, matematica, scienze, storia, geografia, studi sociali, educazione all'immagine, al suono e alla musica, educazione fisica, informatica e religione, non obbligatoria.